silenzio in questi giorni e ci sembrava doveroso farlo anche noi. Ma la nostra non sarà una semplice commemorazione. Vogliamo continuare a sottolineare le motivazioni di una scelta che ha portato un ragazzo a combattere a migliaia di chilometri lontano da qui, a portare solidarietà a un popolo che dopo decenni di dominio e di oppressione ha preso in mano il suo destino e sta portando avanti una rivoluzione che è di grosso esempio anche per tutti noi. Questa rivoluzione era la rivoluzione che Orso aveva voluto sposare. Aveva aderito al movimento curdo che grazie alla guida del PKK, delle IPG e delle IPJ sta lottando per il riconoscimento e la libertà, ma non solo, anche per un mondo libero da oppressione e guerra. E questa è la nostra stessa lotta e è questo che ci tiene uniti e legato a Orso e a tutti i martiri e a tutti i combattenti per la libertà, non solo quelli che purtroppo oggi piangiamo, ma anche quelli che ancora oggi hanno il coraggio di imbracciare le armi e di combattere contro il fondamentalismo islamico, certo, ma anche contro il fascismo del regime di Erdogan. Quindi è nostro dovere da oggi in poi promettere che continueremo a sostenere questo movimento, facendo come ha fatto Lorenzo, cercando di attingere forza a quello che si sta costruendo in quei territori, cercando di sfidare il capitalismo anche qui ed il senso di impotenza che questo vorrebbe infonderci, portare avanti con impegno, coerenza i nostri ideali di giustizia e libertà, gli stessi che avevano portato Lorenzo in Rojava. Perché non ci può essere tristezza né rassegnazione nel cuore di chi lotta, perché solo chi accompagni non muore mai. E questo deve essere il messaggio che forte da questa piazza lanciamo alla famiglia di Lorenzo, a tutti i suoi compagni che sono ancora a combattere in Rojava. Ricordiamo che hanno perso la vita nella guerra nel nord della Siria ben 45 internazionalisti, 45 ragazzi che come loro, come Lorenzo, avevano deciso di rischiare tutto pur di essere coerenti con i loro ideali. Questo deve essere il nostro, l'esempio che portiamo dentro di noi e il miglior ricordo che Lorenzo sicuramente vorremmo avessimo di lui. Vorremmo proseguire in questa piazza con gli interventi e i contributi numerosi che ci sono arrivati dalle organizzazioni che hanno incontrato Lorenzo in Rojava e che hanno conosciuto il suo coraggio e la sua determinazione, così come gli internazionalisti che dall'Italia sono andati a combattere la sua stessa lotta. Avremo poi anche l'intervento di un compagno inglese che è stato al fronte insieme a Lorenzo e che vorrà portare il suo saluto e la sua vicinanza alla famiglia. Avremo poi gli interventi degli internazionalisti che anche dalla Turchia, ricordiamo, dal 2015 sono in appoggio alla rivoluzione del Rojava e si sono recati con le loro organizzazioni della sinistra turca, ahimè anch'esse dichiarate illegali nel regime turco, a sostenere la rivoluzione dei curdi. Vogliamo ricordare qui che la lotta non è solo in Rojava, la lotta si combatte ogni giorno anche nelle strade della Turchia. Oggi in Turchia ci sono le elezioni locali, le elezioni in cui il partito dell'HDP, sostenuto appunto da tutta la sinistra turca, tenta di riconquistare tutti i municipi che gli sono stati sottratti con la forza dalla dittatura di Erdogan, perché dei curdi ancora in Turchia non si può parlare, i curdi ancora sono considerati illegali, la loro lotta è considerata un qualcosa di incompatibile con questo sistema di dominio e di oppressione che noi chiamiamo capitalismo e patriarcato. Ci saranno poi degli interventi proprio da parte di alcuni compagni internazionalisti che sono oggi a seguire le elezioni in Turchia e sono lì non solo, anche per portare solidarietà alle migliaia e migliaia di prigionieri politici, si parla di oltre 7.000 prigionieri politici che si sono uniti allo sciopero della fame lanciato 145 giorni fa dalla deputata di HDP Leyla Güven. Leyla Güven è stata scarcerata, ma migliaia di altri suoi compagni hanno preso il loro posto in questa lotta e 5 di loro hanno purtroppo già perso la vita. Ecco, la morte di ognuno di questi compagni, la morte di ogni internazionalista, dobbiamo fare che non vada in va, che non sia stata invano. Dobbiamo far sì che, raccogliendo il testimone della loro lotta, non ci possa essere tutto questo silenzio e tutta questa indifferenza, le stesse che avevano spinto Lorenzo a lasciare casa sua, i suoi affetti e a recarsi in Siria. Ci saranno poi interventi delle compagne femministe, perché sappiamo che uno dei caposaldi della rivoluzione del Rojava è proprio l'aver messo la parità di genere come primo punto all'interno di una lotta, perché laddove c'è oppressione e dominio, il primo tassello si ha sulla donna, e questo deve essere scardinato, perché finché nessuna e nessuno sarà libero, non possiamo essere tutti liberi. Quindi vi prego ancora oggi di accogliere in questa piazza i genitori di Lorenzo, gli amici che ora porteranno il loro saluto, e intanto ascoltare insieme a noi i contributi che sono arrivati dalla comunità curda, che insieme a noi ha organizzato oggi questo bellissimo corteo, dalle IPG internazionali, dalle IPG internazionali, dal TICO, il partito marxista-leninista di Turchia, nelle cui file combatteva Orso quando ha perso la vita a Baguz, e anche del Tekoshina Anarzist, il battaglione degli anarchici, un battaglione che lui stesso aveva contribuito a fondare qualche mese fa. Un grande applauso e Sheikh Namirin! Di recente Daesh ha attaccato una postazione di controllo delle forze democratiche siriane a Manbij, uccidendo alcuni combattenti. Tuttavia la situazione è molto mutata rispetto a 4 anni fa, quando Daesh stringeva l'assedio per mesi intorno alla città di Kobane. Allora come ora le forze curde sono pronte a lottare e sacrificarsi per difendere la propria libertà da questi attacchi, come hanno dimostrato in tante occasioni, tra cui nella battaglia di Raqqa. La capacità delle YPG e delle YPJ ha fatto in modo che emergesse la Federazione della Siria del Nord, nel territorio noto come Rojava. Per darle vita, i curdi hanno dapprima resistito da soli ai Daesh, poi hanno dimostrato ulteriormente la loro capacità di combattere assieme alle forze della coalizione internazionale. Inoltre, hanno saputo unire le forze nelle forze democratiche siriane, con combattenti siriani di origine araba e assira. Nel tempo, lo sforzo dei curdi è stato accompagnato anche da solidarietà internazionali. Lorenzo Tekocher è un esempio alto di tale solidarietà. Nell'area di Baguz ha saputo sacrificare la vita nel dare sostegno alle forze impegnate a combattere Daesh. L'esperimento del confederalismo democratico in atto nel Rojava spinge la Turchia a continui attacchi. Un triste esempio è quello che nello scorso anno ad Afrin e a tentativi in ambito internazionale di trovare appoggio presso altri paesi per ottenere di mettere fine a questo straordinario esperimento di costruzione di una società alternativa. La Turchia non fa mistero di ritenere che i valorosi combattenti che difendono il Rojava siano terroristi. Proprio quei combattenti, tuttavia, hanno contribuito enormemente alla liberazione progressiva del territorio siriano dalla presenza dei Daesh. Insieme agli internazionalisti che, come Lorenzo, si sono affiancati ai loro sforzi, meriterebbero pertanto che in ambito internazionale si riconosca il loro enorme spirito di sacrificio e la validità dell'esperimento democratico che hanno saputo impiantare nel Rojava. Questo avverrà solo se i rappresentanti delle varie etnie che coesistono in Rojava saranno chiamati anche a partecipare ai colloqui sul futuro della Siria. Nell'auspicare questo, oggi ricordiamo ancora una volta, con grande commozione, lo spirito di sacrificio di Lorenzo e la sua volontà di essere vicino alla popolazione del Rojava e a coloro che lo difendono.